Quando vedremo Italo sulla rete ferroviaria italiana, ingegnere? C'è già una data per il viaggio inaugurale? Settembre dell'anno prossimo, 2011. Innanzitutto noi abbiamo scelto il treno di Alstom, l'AGV, che si chiama in termini tecnico l'AGV, perché è il treno di nuova generazione del più grande costruttore mondiale di treni ad alta velocità, che è la francese Alstom. È un treno che ha novità tecnologiche notevoli, rispetta pienamente gli standard di interoperabilità stabiliti dalla Unione Europea, riduce considerevolmente l'impatto ambientale in termini di rumori, di emissioni di componenti inquinanti e in termini di consumi energetici. Quindi un treno tecnologicamente completamente nuovo, sul quale noi installeremo una serie di servizi che pensiamo siano innovativi. In primo luogo il treno sarà completamente informatizzato, di modo che i nostri viaggiatori potranno utilizzare sempre il collegamento internet e potranno anche vedere in diretta le trasmissioni televisive. Questa è la ragione per cui Italo si scrive anche .it, in quanto Italo significa treno italiano, ma significa anche treno completamente informatizzato.